Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua, benvenuti a tutti, buona serata. Questa è Blue Radio Veneto, siete capitati all'interno della programmazione serale che si chiama Blue Time Live. Una buona serata vi arriva da Flavio Bilato, da chi conduce insieme a me la trasmissione, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti. Dottori. Ecco, allora come si diceva e come si pubblicizzava all'interno del nostro sito internet e anche in altre pagine, questa è una serata particolare, una serata per ricordare un grande artista che ci ha lasciato e per il quale vogliamo subito inserire una canzone, così per salutarlo già in principio di trasmissione. Eccola qua. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo iniziato con un pezzo formidabile di blues per ricordare un grande artista, una chitarra che tutto il mondo ci invidiava e lo volevano tutti perché suonava il vero blues. In questa serata, una grande serata che dura fino alla mezzanotte, vivremo insieme appunto momenti blues ricordando Adriano Vettore, che ci ha lasciati troppo giovane, ecco, ci ha lasciati ed è lassù che ci sta ascoltando, perlomeno vogliamo avere questa idea di Adriano e insieme a Maurizio Calzavara e insieme al sottoscritto Flavio Bilato, per ricordarlo in questa serata, ci sono artisti che hanno condiviso il palco con Adriano Vettore, quindi salutiamo Lele Zambon. Buonasera Lele. Grazie Flavio, buonasera a tutti. Buonasera, poi ancora salutiamo Fabio Betto, eccolo qua, buonasera sì, Fabio. Buonasera. Poi ancora Francesco Bergamo. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera Francesco. E ancora Massimo Favaretti. Buonasera, ciao, Massimo. Ciao a tutti. E poi ciao. A distanza, nell'ambito della serata, ci collegheremo con altri protagonisti della musica, del blues, che hanno vissuto momenti importanti con Adriano Vettore, appunto per portarci la loro testimonianza di quello che hanno vissuto, suonato, cantato e condiviso appunto con Adriano Vettore. E il protagonista della serata in questo caso, oltre ad Adriano, è Lele Zambon, che ha voluto appunto fortemente, assieme al nostro organizzatore artistico che salutiamo, Alberto Prisco, dedicare questa serata ad Adriano Vettore. Lele. Caro Lele, il titolo del primo pezzo è dedicato a Peter Green. Adriano aveva un grande amore, il blues elettrico, mentre tu avevi un amore diverso, il blues rurale. Vi siete messi d'accordo, vi siete trovati tra il blues rurale e il blues elettrico? Com'è? È stata la scintilla che vi ha fatto conoscere? Noi ci conoscevamo già dai tempi dei Royals. Royal è un gruppo beat, gruppo italiano, beat, famoso, il nostro, Missy Robinson, ragazzi, ricordate Missy Robinson, tradotto da Guccini, chiaramente. Tradotto da Guccini ho saputo poi, perché allora lo conoscevo così e così, insomma, che erano i Chris, Adriano Vettore con i Chris, erano dei grandi fans dei Royals. Addirittura noi poi avevamo fatto delle prove addirittura nella cantina di Federico Lusiani, che era il batterista dei Chris, e lì ci siamo conosciuti. Molti anni dopo, non moltissimi, negli anni 70, quando poi io avevo smesso di suonare con i Royals, leggendo i vari testi, i poeti americani, poi mi ero così un po' incuriosito dei testi blues e avevo cominciato a leggere i testi blues, e questi testi essenziali, questi testi scarni, mi avevano affascinato nella loro essenzialità. Ed ero partito da una ricerca storico-musicale, letterario-musicale, da questi testi, da questi blues rurali. Quando poi con Adriano ci siamo trovati negli anni 70, ci siamo confrontati praticamente, io ho portato, diciamo, un patrimonio di questa storia mia del blues, mentre lui aveva già cominciato a suonare il B.B. King. Aveva già cominciato a suonare l'elettrico con molta passione. Sì, aveva anche la testa del fan club di Don Mai a lui. Esatto, lui aveva già, era già gettato nell'universo del blues elettrico. E poi Peter Green aveva, in quel periodo lì, suonava la chitarra da Dio, perché poi l'abbiamo rivisto, poverino. Comunque suonava la chitarra da Dio e, diciamo la verità, aveva una voce anche molto particolare. La voce del bianco che canta il blues era molto affascinante. Certo. E poi c'era quel disco strepitoso che era Fleetwood Mac in Chicago. Certo. Ricordiamo che lui ha fatto un End of the Game da solo, solista, disco che una volta era una preda dei collezionisti, poi è stato ristampato, un disco fondamentale per il blues elettrico di Peter Green. Allora andiamo piano, perché qui gli ascoltatori devono prendere assolutamente appunti, perché se non sono del mestiere. Allora mi piacerebbe far sentire un pezzo, perché io registravo in casa mia, io stavo studiando medicina, e allora in quegli anni, per un po' anche per gli stami, un po' per questo, un po' per quello, cercavo di musica, questi testi li interpretavo con una musicalità diversa, una musicalità che io sentivo. Ho capito, dimmi. E quindi riscrivevo la musica sui testi blues. Adesso mi piacerebbe fare sentire un testo, una di questi pezzi registrati in casa con Revox. Non so se all'epoca, sì, certo mi ricordo Revox, l'abbiamo anche qui in radio. Sì, se l'abbiamo tenuto Renzo Storti, non so se conosce. Esattamente. Che Renzo Storti l'aveva fatto una modifica per cui poteva fare una sovraincisione Only One. Only One. Sì. Noi ricordiamo con piacere che una volta le radio, quando funzionavano di non stop music, in luogo di computer avevano il Revox che tornava indietro al comando. Volevo portarmelo, sì, stasera. No, ma se vuoi, vieni a piangere davanti al nostro altro Revox. Ascolta, questo pezzo, sì, che facciamo sentire, l'abbiamo registrato a casa mia. Quanti anni fa, ti ricordi? Questo credo che sia un pezzo del 70-71. Quindi decisamente... Tra l'altro abbiamo la fortuna di avere qui con noi Francesco Bergamo, che ha cantato questo pezzo. Io sono lo slide, c'è una curiosità, la slide e anche una sovraincisione, una chitarra elettrica non amplificata, quindi con un suono molto particolare che in quel periodo mi affascinava. Benissimo, allora... Black Blues, eccolo da qua. Voci d'Africa. Perfetto, allora eccole qua all'interno di Blue Time Live fino alla mezzanotte con i nostri graditissimi ospiti, sempre nel ricordo di Adriano Vettore. Eccola qua. Thank you. the blues face. The blues black on the face. I said a black on blue face. In the morning, taking the sun, the blues black all night long. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Eccoci ancora qua, torniamo in diretta, sentiamo in sottofondo i bonghi di Francesco, che fa l'accompagnamento. Compagnia, sì, perché stava seguendo il ritmo naturalmente della nostra sigla, del nostro sottofondo musicale. Ci siamo ascoltati un bel pezzo di Black Blues. E allora, Lele, ogni volta che si suonava questo bisognava svuotare il garage. Il garage era già vuoto quando cominciavamo. Comunque queste sono registrazioni domestiche e veramente molto molto simpatiche, anche, certo. No? Fatte con molto entusiasmo e con scarsità di mezzi, naturalmente. Ma non sembra dalla registrazione. Ma c'era questa voglia di fare, c'era sicuramente. Una jam session domestica. Esatto, tu hai citato il Fleetwood Mac 1970, sì. Fleetwood Mac in Chicago, quindi siamo là come periodo. Siamo lì come periodo, sì. Anche perché, permettimi Lele, forse la dimensione blues è proprio questa dimensione un po' grezza. Probabilmente la dimensione blues è proprio questa, il live, suonare, quello che viene, viene. Non... Della serie buona la prima. Bravissimo. Sì, e i produttori possono dire quello che vogliono, no? Della serie. L'importante è sentire l'animo della musica così come viene, perché il blues naturalmente viene dall'anima, anche l'altra musica, per carità, però il blues forse per eccellenza è quello che è la musica che viene da dentro, non solo molto, ma profonda. Poi quando se ci sono 10 persone e cominciano due a suonare il blues, alla fine lo suonano in 10. Si attaccano tutti perché il ritmo è ritmo, è contagioso. Al groove proprio è contagioso. Tu dicevi una cosa, Lele, mentre il pezzo andava, che Adriano, tu non è che tu ospitavi Adriano, era Adriano che ospitava te. Sì, poi quando abbiamo cominciato a rifrequentarci, lui, la mamma sua abitava in una casa nelle Fornace Morandi, c'erano queste case che adesso poi sono state abbattute. Queste case di campagna, ricordo c'era questa scaletta di legno molto stretta che portava su in una stanzetta, tutta con le pareti di legno. Aveva già le chitarre Adriano all'epoca. Avevamo di Marshall al cento. Ecco, in basso al cento. Delle Francesco bombe, ti dice che erano molto alti. Delle bombe allucinanti e suonavamo a volumi... buoni. Forse per quello hanno tolto le case. Sono crollate le case. Suonavamo a volumi pazzeschi, no. E c'era sempre la sua cagnetta bella che veniva in stanza con noi in questa soffitta di legno e con le zampette si nascondeva le orecchie perché Marshall 100 era troppo. Quindi si proteggeva da dire poveretta, così, si proteggeva. Sì. E suonavamo lì, abbiamo cominciato a suonare i blues, abbiamo cominciato a fare queste cose e quindi praticamente ci siamo scambiati un po' di influenze. Cioè tu hai parlato del blues rurale, mentre lui ti rivolgeva il blues elettrico. Esatto, esatto. Adesso, prima di arrivare un attimo a questa unione di esperienze, mi piacerebbe far sentire queste due o tre cose, alcune registrate, alcune live, su questa esperienza, su questo momento degli anni, di inizi anni 70. E c'è un pezzo che è il sempre registrato nel Quello sì, va bene. Sì, scusa. È tutto in diretta, abbiamo, è tutto in diretta. Tutto abbiamo in diretta. Dei momenti di... Ma fa parte della diretta, Lele. E c'è un pezzo che mi piace fare sì. sentire perché l'abbiamo registrato. Io praticamente stavo studiando così, poi ogni tanto mollavo tutto perché ne avevo due. Così come si esatto. suol dire dopo una giornata sì, di studio. Si dice, sì. Anche perché i primi anni di medicina l'avevo passati suonando con i Royals. Ecco. Quindi negli ultimi anni ho recuperato gli anni passati con i Royals. Quindi mi sono chiuso in casa da buon eremita. Però arrivava a un certo punto che qualcosa dovevo pur fare ed era suonare. E questo pezzo che facciamo sentire adesso, da, sempre da questo libro Voci d'Africa, perché poi avevo letto questi poeti africani in lingua inglese e mi erano molto piaciuti, e questo testo è proprio di uno di questi poeti. E allora sono lì che sto per iniziare a suonare questo pezzo, c'è mia sorella Donatella che mi affianca e l'abbiamo suonato io e lei insieme, così come è venuto. Lei neanche sapeva cosa stavo suonando. Benissimo, allora Blackmon Trouble. Ecco qua, allora all'interno di Blu Radio Veneto ascoltiamo questa Blackmon Trouble. Ricordiamo anche ai nostri amici che ci ascoltano sia dalle frequenze tradizionali, quindi via etere in FM, sia dallo streaming audio della nostra, del nostro sito internet www.bluradioveneto.it, che è possibile anche intervenire all'interno della nostra pagina su Facebook, quindi Blu Radio Veneto Rock Wave, per portare anche la vostra breve testimonianza relativa appunto al ricordo di Adriano Vettore che stiamo rivivendo in questa serata. Benissimo, allora Blackmon Trouble. Oh, Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ancora all'interno di Blue Time Live, ancora un benvenuto a tutti i nostri carissimi ascoltatori. Black Man Trouble si intitola questa canzone, e c'era proprio tutto il sapore del salotto in questo caso, dove tranquillamente Lele Zambon stava suonando la sua chitarra e poi è stato accompagnato sia alla chitarra che alla voce dalla sorella Donatella, come si diceva prima. Esatto. E anche qui è il caso di dire proprio buona la prima, perché si sentivano un po' i suoni un po' lontani, un po' distorti. Poi quando qualcuno suonava il campanello andava, si sentiva anche il campanello, si mi sentiva pare giusto. Anche il campanello. Dicevi giustamente, Lele, che questa è la musica che girava intorno ad Adriano. Questa era la musica di quel periodo che si ispirava a Padova, che si sentiva a Padova. Questa è la musica che naturalmente si respirava, e quindi probabilmente anche attraverso queste sonorità siamo entrati in contatto con e abbiamo deciso di suonare insieme. Questo è importante, di suonare insieme. E quindi abbiamo cominciato a trovarci in questa famosa casa della Fornace Morandi, con questa stanzetta di legno, con questa scala di legno. La vostra basement tapes, alla Dylan possiamo dire, i vostri nastri. Sono i nastri. Abbiamo cominciato a riproporre, a risuonare i vari blues, e naturalmente in quel momento lì siamo passati completamente all'elettrico. Come mai? Cioè, ti sei convinto di passare all'elettrico? Adriano ti ha dato una spinta, no, devi passare all'elettrico? No, ma già in queste registrazioni già qualcosa si sente. Avevo una chitarrina elettrica che suonavo e poi siamo passati a fare, diciamo, dei pezzi di successo internazionale, quindi delle cover, e siamo passati ai pezzi, non più i nostri pezzi, ma pezzi fatti da altri. Da altri, chiaramente. E quindi abbiamo cominciato a suonare altre cose. C'era anche Francesco in queste registrazioni, non c'eri? Sì, c'eri, eri presente. Francesco era il re dei bonghi. Il re dei bonghi. Chitarra, armonica, gran percussionista, grande vocalista. Cari ascoltori, voi non lo sapete, dietro a Francesco c'è una valigetta piena di armoniche. Mettiti davanti il microfono, dillo. Sì, piena di armoniche. Con un sacco di tonalità diverse. Sì, per poter suonare tutte le tonalità. È vero. Una valigetta completa, cari ascoltatori. Sì, sì. Dovete sapere che Francesco arriva direttamente dai Rolling Stones. No, non è vero. No. Ma prima stavi dicendo di Adriano, sì. Facevate Black Magic Woman. Black Magic Woman. Con Adriano. Come mai Black Magic Woman, lei, con Adriano? Beh, tanto Black Magic Woman è sempre Peter Green. È sempre Peter Green che galleggia, effettivamente. È una grande chitarra che nello stesso momento in cui fa l'assolo rappresenta anche una melodia. E Adriano era molto affascinato dalle melodie. Non a caso lui... Adriano era affascinato dalle melodie e anche dai testi. E quindi in questo senso lui... amava Guccini perché faceva dei testi, amava Lauzi, quindi amava i cantautori italiani. Impegnati. Quindi diciamo che lui era un artista a tutto tondo, nel senso che non suonava il blues, ma però amava tutta la musica, come amava tutti i musicisti che gli si avvicinavano, che avevano entusiasmo. Ecco, hai detto una cosa giusta, amava tutti i musicisti, senza distinzioni, accoglieva uno che accoglieva tutti praticamente. Adesso vorrei fare io una domanda a questi signori che sono presenti stasera. A Massimo, ha preso un'eredità, perché Massimo si è preso l'impegno di ritrovare gli allievi bimbi di Adriano nella parrocchia di Torre, e Adriano era molto amato, aveva molti bimbi a cui insegnava la chitarra, aveva due turni addirittura, e adesso per la sagra del 27 vorremmo aprire con questa iniziativa di questi ragazzini che cantano. Sì, ricordiamo... Ma io vorrei chiedere a Massimo, che li ha già visti due o tre volte, ma qual è la lezione che ha dato Adriano a questi bambini e che ti sembra di poter... Beh, a parte la lezione che ha dato Adriano ai bambini, intanto la lezione che Adriano ha dato a me e l'eredità che ha dato a me Adriano, nel senso che prima volta che ho visto i bambini, perché anche questa preparazione della festa per Adriano il 27 è stata chiaramente molto improvvisata, se vuoi, i tempi erano molto stretti, e quindi speriamo comunque che venerdì intanto ci sia molta gente, che i ragazzini si divertano e che le famiglie vedano comunque il proseguimento del lavoro di Adriano. Ci sono state poche occasioni per poterli mettere alla prova, però ho trovato dei ragazzi con un entusiasmo incredibile. E soprattutto il primo discorso che ho fatto ai ragazzini, ho detto: guardate, io non sono Adriano, non potrò mai essere Adriano, però con Adriano avevamo delle cose in comune molto importanti, che era l'entusiasmo per la musica, la curiosità e il non avere nessun tipo di paraocchi nei confronti e di paletti nei confronti di nessuno, musicisti o generi musicali. Ecco perché Adriano era veramente un grande, perché lui era curioso, e quando parlavamo, soprattutto negli ultimi periodi dove parlavamo sì di musica ma anche di cose molto personali, ci accomunava proprio questo desiderio, e spesso dicevamo: io spero fra 20 anni, e questo chiaramente era l'augurio che tutti noi facevamo ad Adriano prima di farlo a noi stessi, speriamo fra 20 anni di avere ancora tante cose da scoprire nella musica, nel modo di suonare, migliorando il nostro modo di suonare. E la grandezza di Adriano, come spesso è stato detto, si misura anche proprio nella sua umiltà e nella capacità di fare un passo indietro, come tutti i grandi. Benissimo, allora ricordiamo che appunto questa è la prima parte dedicata ad Adriano Vettore, quindi la parte radiofonica fino alle 24, insieme oltre a me a Maurizio, con Lele Zambon, Fabio Betto, Francesco Bergamo e ancora Massimo Favaretti, che abbiamo appena sentito parlare, e poi naturalmente la seconda parte dal vivo, come si diceva, il 27 settembre dalle 20:30, dove ci sarà un concerto appunto in memoria di Adriano Vettore alla Sagra di Torre, quindi in piazza San Michele Arcangelo in quel di Padova. Benissimo, allora direi che adesso è giunto il momento di ascoltare qualcos'altro. Lele, facciamo sempre, mi riferisco sempre a quel periodo, quindi facciamo 2 o 3 pezzi dei testi dei Neri d'America, dei Neri d'Africa e degli afroamericani. Era un momento molto particolare di studio di questi pezzi. Questo si chiama Red River. Naturalmente la musica era ben altra, io ho modificato la musica, cioè, ma ho ottenuto il testo. 1, 2, 3, 4. Tell me which way Jody Red River ran. Tell me which way Jody Red River ran. Some for a tale ran from sun to sun. Red River is so deep and wide. The river is so deep and wide. The duck can get a letter from the other side. The forward did tell me round from east to west. The old forward did tell me round from east to west. And I always believed they didn't know the best. The river is so deep and wide. The river is so deep and wide. The duck can get a letter from the other side. A river is so deep and wide. A river is so deep and wide. Abbiamo sentito un primo pezzo con un vero un pathos che Lele ha trasmesso attraverso la sua voce, accompagnato dalle chitarre di Fabio e di Massimo e ancora dai bonghi di Francesco. Grande coinvolgimento in questo pezzo, Lele. Sì, quando si parte col ritmo, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Quasi caraibico, eh? Lele, secondo me. Quasi caraibico. Sì, questo era leggermente caraibico. Era un po' sudamericano. Sudamericano. Ammesso che esista un connubio tra blues e caraibi. Ma questa la vedevo molto così, la vedevo sì. molto. Però vorrei dire forse più country. Ecco, sì, leggermente più country. Sì. Beh, country. Perché ho visto nell'occhio di Fabio. Sì. Chiedi a Fabio dove è stato l'anno scorso. E dove sei stato, dove Fabio sei stato? L'anno scorso? Sì, sì. Una domanda così che è nata spontanea, non, sì. non l'avevamo prevista. non prevista, assolutamente. Sì. Siamo stati nel sud-est degli Stati Uniti. Mm. Di casa. Ho fatto un massimo, piccolo giretto. Massimo. Massimo. Dobbiamo ricordare che Fabio è l'ultimo della nidiata dei musicisti amici di Adriano, vero? Sei entrato nella band in che periodo? Beh, ho iniziato a collaborare con Adriano nel 2005, poi sono entrato nella bella blues band. E niente, ci siamo divertiti tanto, ho imparato molto, mi ha trasmesso tantissime cose sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista personale, perché eravamo, insomma, passavamo molti fine settimana assieme, sempre, ecco, in giro a suonare. È una cosa giusta, molti fine settimana assieme, perché Adriano parlava sempre di musica, vero Lele? Tra l'altro, quando Adriano mi ha parlato di Fabio, mi ha detto: ma sai che conosco un ragazzo che suona molto bene i Beatles? Ah, vedi caso, era lui praticamente. Sì, era lui. E suonava molto bene i Beatles. Mm. Sì, sì, sì. Sì, è un'altra passione. Anche come blues, però, non solo Beatles. Sì. Ho queste due passioni, i Beatles e il blues. Certo, anche Adriano era un grande estimatore, un grande amante dei Beatles, ne sapeva molto più di me. Ne sapeva moltissimo, sì, vero? Era un'enciclopedia. Era un'enciclopedia vivente. Guarda, quando avevo un problema, chiedevo. Dovresti fare domande a lui adesso. Dimmi, non ho capito. No, dovresti fare domande a lui. Se ci fosse lui adesso, avremmo giorni per parlare con lui. Tutti i riferimenti letterari, tutti i riferimenti storici li avresti veramente ad hoc. Beh, uno che ha più di 100 chitarre, ragazzi. Ma lui si ricordava i nomi di tutti, le date, del musicista che suonava con quell'altro e quello che suonava con quell'altro la volta prima. Ah, è quello che suonava con quell'altro la volta dopo. Ah, e quindi anche una cronologia importante. Sì, una cronologia di tutti molto quelli... importante. Poi veramente una. Ma non è che se li ricordasse perché. Così. Se ricordava perché ad ognuno sapeva legare una storia, un momento musicale, li aveva proprio impressi nella mente. Per cui chi lo circondava era comunque importante, diciamo questo. Quindi un personaggio che faceva parlare forse. Poco di sé, se vogliamo, no? Sì, parlava. Per lui la sua musica, si faceva vedere poco, forse non si vendeva benissimo come molte volte aveva modo di dirlo, certo. Però nello stesso momento tutti si affezionavano alla sua figura. Lui non usava effetti sulla chitarra, perché l'effetto era la mano, hai capito? Ah, ho capito. Cioè, mentre tutti quanti andavano, ma che chitarra hai? Ma che amplificatore hai? cioè lui prendeva la chitarra di uno qualsiasi, prendeva l'amplificatore di uno qualsiasi e suonava sempre come Adriano, hai capito? Perché non era quello, era la mano, la vibrazione della mano, era il suono che riusciva a dare. Difatti negli ultimi anni, Lele, quando suonavamo in giro anche con band diverse nell'ambito della stessa serata, c'erano tutte queste valigette degli altri chitarristi, zeppe di effetti. Tutti i tipi, di lei, poi arrivava Adriano, aveva un pedalino, mi fa beh, ma tanto non lo uso, ma era un pedalino dell'amplificatore, non di un effetto, sì. Perché il suono della chitarra di Adriano era quel suono lì, quel suono lì. Quindi saper calibrare senza tutti gli oggetti elettronici deve essere proprio frutto di una grande passione, di una grande esperienza. E forse un po' era anche quello che ci accomunava, perché ovviamente, cioè io sono più chitarrista acustico che non elettrico, Adriano più chitarrista elettrico, però aveva un suono talmente pulito che si avvicinava molto al modo di suonare una chitarra acustica dove la minima sbavatura si sente, e lui suonava alla stessa maniera la chitarra elettrica. Quindi non c'erano differenze per lui, assolutamente. Massimo, quando l'hai conosciuto Adriano? Stabilmente. Io Adriano l'ho conosciuto, è stata una conoscenza assolutamente casuale, ci hanno catapultato sul palco del Verdi per una serata di beneficenza organizzata dai Lions nel 2010. E ci siamo trovati con alcuni nostri amici, eravamo in 5 chitarristi, tra cui Adriano e Lele. E Lele. La serata è andata come è andata, perché 5 chitarristi sul palco, insomma, è una bella sfida. Certo. È andata bene, ci siamo divertiti, ma la cosa che non potrò mai dimenticare è l'amicizia che è nata con Lele e con Adriano. Amicizia che si è consolidata poi nel corso di tante occasioni che abbiamo avuto di passare serate insieme, che finivano dopo il concerto, finivano a mangiare una pizza insieme nella pizzeria che noi amavamo, e a parlare di musica e a parlare di emozioni che la musica dà e attraverso la quale si spera di trasmettere l'amore che noi proviamo nel suonare alcuni pezzi. Perfetto, perfetto, chiaro, chiarissimo. Bene, ancora musica dalle frequenze di Blu Radio, questa volta Lele cosa ci fai ascoltare? Ora facciamo naturalmente sempre attingendo da questi dai neri d'Africa, facciamo un pezzo veramente blues, The Black Man, naturalmente qui perché loro poverini soffrivano anche, no, per cui questa negritudine, questa loro Black Man, the black qua, cioè era una tristezza, una sofferenza, quindi avevano veramente un grosso disagio e lo trasmettevano attraverso questi testi. Certamente. The Black Man. 1, 2, 3, 4. You say we shouldn't always wail, one on a smile, not always one second head. Why all the claps? We shouldn't always lay your broad back so long. Money you fell, we shouldn't always laugh. While on a plan, not always curfew and keen. While all the pride, we should not be full, always lash our prayers, oh Lord. Mother, you pray, we should not always pull. While on a push, not always keep our fold. Why all the cheers? We shall not be slain, always fashion as like men, oh Lord. Mother, black man, slaves, everlasting, oh Lord. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Grande serata blues questa, sentiamo anche sorridere in questo caso Massimo, che ha fatto un acuto di risata, ti abbiamo sentito. Si è fatto l'acuto con l'armonica, anche ha fatto l'acuto di risata. Perfetto, e allora dicevo grande serata blues proprio in memoria di Adriano Vettore, come si ricordava in principio. Ricordiamo i nostri ascoltatori che la nostra trasmissione non è solo ascoltabile tramite le frequenze tradizionali, quindi potete anche collegare su internet all'interno della nostra pagina, appunto, che ricorda Adriano, c'è anche la possibilità di cliccare per ascoltare la diretta. Poi diciamo anche un'altra cosa: questa trasmissione la stiamo registrando così da poterla proporre successivamente all'interno di quelli che sono i nostri archivi sonori, così per rivivere questa serata blues. Caro Flavio, hai sentito l'assolo che ha fatto Fabio? Ero qua. Cari ascoltatori, avete sentito l'assolo che ha fatto Fabio? Accidenti. Strepitoso. Mi sa che lo state ascoltando. Veramente sei stato, cioè hai colorato il pezzo. Faceva così Adriano. Sì. Dimmi. Mi inserisco un attimo. Una volta che ci siamo trovati assieme a trovare Adriano, quando già insomma non stava proprio bene, Adriano mi ha detto: questo è mio figlio. Ecco, vedi. ha dato proprio l'imprimatur, caro Fabio. No, come ho detto prima, abbiamo passato tantissimi momenti anche durante le mille tournée che facevamo. Suonavate dappertutto. Suonavamo dappertutto, abbiamo suonato sì da Pantelleria a Bolzano, ci siamo fatti tantissimi giri. E appunto, sì, mi ricollego prima anche alla grande passione che aveva. Tra l'altro, era bello che dal sud al nord, ogni località, lui aveva un aneddoto. Tipo conosceva tutto. Nella Sicilia, Monte Lepre, qui i mille si sono fermati qua. E restavo attonito ad ascoltarlo per ore ed ore, che raccontava tutte queste storie qua. Poi dal punto di vista musicale, insomma, penso che non aveva segreti, non aveva, cioè, assolutamente, era talmente bravo che non aveva nessun problema. E quindi sapeva anche far sorridere tutte le persone che lo circondavano, perché sì. Con tutti questi aneddoti legati anche alla storia, non so, alla geografia, queste cose qua. Soffrivo molto la notte, perché come ultimo arrivato negli hotel mi mettevano sempre con Adriano. Non riuscivo mai a dormire. Quindi sai molte storie. Sì, un simpatico aneddoto è che stavamo suonando a Brunico, da quelle parti là, era in marzo, quindi era ancora freschino. E mi hanno messo in camera con Adriano. Non riuscivo proprio a dormire. Alle 4 di mattina sono partito, sono andato giù nel terrazzo estivo, mi sono messo sulla branda esterna con la coperta, tutti in cerca di Fabio. Ero là che dormivo. Sì, ma come mai? Perché suona anche di notte? Sì, aveva delle frequenze su. Quindi si voleva dire che forse russava. Sì. Ah, ho capito. Un pochettino, però vabbè, lo faceva tra amici comunque, sì, no? Sì. Benissimo. Ok. Lele, mi diceva una cosa interessante. Quando andavi a trovarlo nel suo piccolo studio, nella sua taverna, come possiamo definirla, nel suo mondo musicale, che cosa scambiavate? Un secondo piano in campagna. Ecco, secondo piano. Cosa scambiavate là dentro? Non sento. Mi senti? Sì, no. Prendi quel microfono là. Sì. Ecco. Allora, praticamente abbiamo cominciato a suonare e ci siamo molto appassionati di un gruppo, gli Allman Brothers Band. Gli Allman Brothers Band con queste due chitarre soliste, e io poi allora sapevo suonare un po' la chitarra, a differenza di ora. Perché ci dedicavo un po' di tempo. Tieni presente che Adriano, quando andavo a trovarlo, anche qui negli ultimi, lui aveva sempre le sue scale da studiare, scale nuove, cioè lui era uno studioso. Continuava a studiare, cioè, sempre, immediatamente. Lui studiava la chitarra, studiava assolutamente. Non si fermava mai. Non è che vivesse di hai capito? Ho capito. Continuava a studiare, a sperimentare. A sperimentare. E praticamente facevamo questi pezzi di Lehman Brothers. Jessica lo facevate? No, ma facevamo un pezzo proprio a due chitarre che ricordo con grandissimo affetto. Ed è stato lì che, cominciando a fare questi pezzi e suonando fuori, che praticamente ho dato il nome a questo gruppo. Perché ecco, il nome, scopriamo il discorso di questo nome. Il nome, le tre B. Sì, non è BBB King, no? Allora, un po' mi veniva in mente, perché sì, il BB, cioè, sì, sono due grandi BB, sì, ragazzi. La Brigitte Bardot e anche grande, sì, ecco, ecco. A me questa cosa mi piaceva assai. Sì. Non dirlo a Sergio BB King, sì, e Brigitte Bardot. Sì. E poi c'era sta cagnetta che anche era la bella, era mia. Mi è piaciuto questo 3B, aveva pure del non 2B, del, dei, 3B. Dei, degli amplificatori Marshall la cagnetta, sì, sì. Esattamente, era venuto fuori questo 3B. E questo è uno dei pezzi a cui veramente sono particolarmente affezionato, che facevamo insieme fuori, era In Memory of Elizabeth Reed. Tu mi chiederai, ma cosa ti fa venire in mente questo pezzo? Te lo dico subito. Perché Duane Allman, sì, in quel periodo lì ascoltava moltissimo Miles Davis. Perfetto. Quindi si dava, Kind of Blue. Si dava il jazz. E lui era molto appassionato di Coltrane e di Miles Davis. E questo pezzo qua ha delle grosse reminiscenze di Kind of Blue. E allora ce l'ascoltiamo. Eccola qua. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Ecco qua, senza accorgercene è passata già un'ora insieme, un'ora che stiamo vivendo in questa maratona musicale legata proprio alla memoria di un grande artista scomparso recentemente e prematuramente, Adriano Vettore, grande chitarra blues di questi anni, invidiato dal mondo, diciamo di proprietà padovana. Alcuni da Treviso lo reclamano, però diciamo che... Era qua che aveva il suo fulcro di attività, le sue amicizie più care. E allora abbiamo ascoltato un pezzo degli Allman Brothers, In Memory of Elizabeth Reed, un brano che un po' si distanzia da quella che era l'atmosfera blues che si assaporava fino a qualche minuto fa, un brano legatissimo invece al jazz e comunque una bella scelta musicale di Lele Zambon. Sì, una scelta musicale di Lele, perché era una scelta anche di Adriano, vero Lele? Sì, sì, abbiamo condiviso questo pezzo ed era il pezzo con cui iniziavamo i nostri primi concerti come bella blues band. Esattamente. Adriano stasera non c'è, però come avrebbe risposto? Che musicista era di un Alma per fare un assolo simile? Ma io credo che a lui piaceva molto le due voci di chitarra nel pezzo base, no? Certo. Poi ognuno partiva col suo assolo, quindi c'era questo legame di coppia di due chitarre, molto appassionato, come due che cantano insieme, la prima e la seconda voce, e poi c'era l'assolo in cui ognuno esprimeva se stesso, quindi sono pezzi fondamentali. Esattamente. Per un artista sono pezzi che esaltano. Poi la band esaltava, perché diceva giustamente Francesco, c'erano due batterie, cari signori, stasera in Brothers Sister, due batterie, gli Allman Brothers Band avevano due batterie, quindi una forza ritmica straordinaria. Cosa dici, Francesco? Certo, sono d'accordo. Grande forza, grande improvvisatore. Grande improvvisazione, assolutamente sì. Improvvisato. Di un Alma è un improvvisatore nato, sì, sì, sì, sì. Straordinario. Anche come intuito, era incredibile. Fabio, cosa ne pensi? Tu che sei un chitarrista solista in questa scala, certo, stasera. Poi tra l'altro in questo pezzo si sentiva chiaramente la ripresa di sonorità di tipo, i tecnici direbbero, modale. Ecco, esatto, modale. Appunto, che era tipico di Davis e di Coltrane. Quindi il jazz... Penetrava nel pezzo. Sì. E tra l'altro la cosa che piaceva tantissimo Adriano era anche il sound sudista che avevano gli Allman Brothers. Massimo, sì. Sound sudista. Allora, scusa un attimo Maurizio, ricordiamo che la trasmissione non la facciamo solo noi dallo studio, ma abbiamo anche degli ospiti che si alterneranno anche in via telefonica, e quindi continuiamo la trasmissione salutando anche chi ci sta ascoltando e chi interverrà in questo breve intervista telefonica. Quindi salutiamo Jimmy Weinstein. Buonasera Jimmy. Buonasera Jimmy. Si parlava di... Buonasera Jimmy, come stai? Bene? Benissimo, grazie. Si parlava di la trasmissione. Si parlava di jazz, Jimmy, tu sei un esperto di jazz. Mm-hmm. Parlaci del tuo rapporto anche musicale con Adriano. Boh, la cosa che era speciale di Adriano è che sapeva molto di tanta musica, non solo blues, chiaro. E con me parlavamo spesso del jazz, ma non solo jazz, perché lui sapeva anche cose su Astor Piazzolla, per esempio, no? È grande cultura, e questa era la simpatia, credo, che aveva per la musica, no? Mi ricordo un viaggio che abbiamo fatto con Lele tornando di Milano. Perché eravamo a Milano a mixare il disco di Lele, di Allen Ginsberg, che abbiamo ascoltato nel viaggio di 3 ore a Milano, abbiamo ascoltato tanta musica nella macchina con Lele, e Adriano stai parlando e con suo amore per la musica, parlando di diverse musiche, abbiamo ascoltato un disco mio, abbiamo ascoltato altri pezzi, era sempre coinvolto con altre musiche, e credo che questo era importante da dire di Adriano. E per me era sempre divertente suonare con lui, sempre sul palco, perché lui ha grande spirito, grandissimo spirito di essere insieme con te sul palco. Jimmy non si tirava mai indietro, Adriano suonava sempre se c'era la possibilità, non è così? Mm-hmm. Sì. Ehi, hey Jimmy, Lele. Hai sentito Fabio cosa ha detto? Ha detto che qui c'era il modale che Duan Alma amava queste scale modali che usavano anche Miles Davis e Coltrane. Cosa dici? Mm-hmm. Cosa ti sembra di questa bellissima osservazione? Cosa dici? Penso che Coltrane aveva una influenza su tutta la musica del suo tempo e in quel momento e adesso ancora oggi chiaramente, però lui era credo che era una liberazione per i musicisti di rock che avevano voglia di improvvisare e loro avevano preso come il messaggio, no, di Coltrane e di Miles e tanti altri, specialmente la possibilità di perché questi jazzisti dopo gli anni 60 cominciavano a improvvisare su un accordo, no? E questo era la cosa che forse ha colpito musicisti come Duane Allman e Santana e tanti altri, no? Chiaro, chiaro. Quindi anche Adriano amava indirettamente John Coltrane, praticamente aveva questo collegamento. Cosa dici, Jimmy? Io credo che lui amava Adriano era un musicista che apprezzava l'arte e lo sentiva e l'apprezzava quando non penso che per lui non importava praticamente che stile era, perché lui era nel blues, però lui apprezzava una grande gamma di musica, e questa era la sua cosa. Giusto. Cioè, io mi ricordo in quel viaggio che mi ha fatto con Lele, parlando del rullante di il disco di Neil Young, in un brano, in Out on the Weekend, che lui sapeva questa cosa anche. Mi ricordo parlando con lui di questa cosa, il suono del rullante su Out on the Weekend, che è una cosa speciale, e lui sapeva di questa cosa anche. Noi eravamo così parlando di queste cose, era molto, una cosa molto specifica, no? Ma, era così Adriano. Straordinario. Passava da Neil Young a B.B. King, è una cosa meravigliosa. Sì. Aveva una cultura a 360 gradi. Quindi insegnava... Ti ricordi? Sì, ricordo. Sì. Poi una grandissima curiosità musicale. Certo, quindi insegnava la musica americana anche agli americani in questo caso, Jimmy? Sì, assolutamente. Sì. Lui ha sempre aveva questa tensione, no? Attenzione. Mm-hmm. Bene, qual era la musica che condividevate insieme? Ovvero c'era qualche gruppo più di altri che vi appassionava, di cui si parlava sempre volentieri? Adriano? Sì, con Adriano, sì. Te e Adriano, nel tuo rapporto speciale con Adriano. Sì, ma lui parlava spesso di B.B. King, Peter Green... e tanti altri. Mi ricordo che lui mi voleva fare sentire quella versione di questo brano di B.B. King fatto da Robin Ford, e gli piaceva molto questa versione di Help the Poor, e spero che posso suonarlo io dopo venerdì con Lele questo brano mi ricordo lui parlando di questo brano, il modo che avevano cambiato il ritmo, che avevano cambiato il groove, Robin Ford dell'originale, no? Perché l'originale di B.B. King è come una specie di rumba, no? E la versione di Robin Ford era più rock, no? Benissimo, allora ricordiamo che appunto, come dicevi tu, Jimmy, il 27 settembre, quindi venerdì, ci sarai anche tu sul palco insieme agli altri amici di Adriano Vettore per appunto rivivere una serata blues. Ehi, Jimmy, proprio. Hai deciso la tonalità? Sì. Da un minore. Benissimo. Ciao Jimmy. Ciao Jimmy. Ciao. Grazie Jimmy. Ciao, grazie ciao, a voi. Ciao Jimmy. Ci vediamo venerdì. A venerdì. Sì. Ciao. Allora, ciao. Vi siete passati dei messaggi a distanza, sì, non solamente sì. Abbiamo scavalcato Flavio. Certo, assolutamente legati appunto a quella che è la prestazione di venerdì sera, quindi vogliamo tanti ascoltatori che diventeranno anche spettatori di questo evento in ricordo di Adriano Vettore per l'appunto, quindi ricordiamo il 27 settembre dalle 20:30 in piazza San Michele Arcangelo a Padova, in località Torre, proprio in corrispondenza con la sagra di Torre, ci sarà questa manifestazione musicale dove in apertura, come si diceva prima, si esibiranno i ragazzi della scuola di chitarra di Adriano e poi ancora a seguire suonerà la formazione Amici di Adriano con qualche bella sorpresa che comunque stiamo vedendo qua e là, che sbucano fuori i nomi appunto dei partecipanti in questa serata. Allora Lele, direi di sistemare qui una breve pausa musicale. Cosa ci proponi? Allora, volevo proporre un pezzo dei Beatles. È un pezzo di Beatles un po' particolare, tra l'altro è stato inserito nelle 100 più belle canzoni. È un pezzo di Beatles in cui i Beatles, qui in questo caso John Lennon, ha cambiato il testo invece di parlare delle ragazze, di un po' delle solite cose, dei testi diciamo precedenti, ha cominciato a parlare dei ricordi, dei posti, degli amici, e quindi è un testo che è andato in un altro senso. E mi piace molto questa frase che dice "And friends I still can recall, some are dead and some are living." Dei miei amici, come i posti che cambiano, anche i miei amici, alcuni se ne sono andati, alcuni sono ancora vivi. Questa è una canzone che questa sera dedico ad Adriano. In My Life. 3, 4. There's a places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places at a dear moment. We lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love you more. But of all these friends and lovers, there is no one compared with you. And this memory lose their meaning. When I think of love, it's something new. Though I know I'll never lose affection. We lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are more living. In my life, I love you more. Though I know I never lose affection, we lovers and friends, I still can recall. I know I love them, stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Blue Time Live, Blue Time. Live. Ci siamo ascoltati un bellissimo pezzo dei Beatles rivisitato da Lele Zambone e i suoi amici, e in questo caso Fabio Betto, che è esperto dei Beatles, ci dirà: eri più verso Lennon o Paul McCartney? McCartney. Quindi. E come mai questa scelta così decisa? Perché era meno impegnato il McCartney? O... No. Non so, istintivo. Forse più istintivo, anche se... Bah, non so, è naturale. Mi viene naturale dire Paul, sì, in qualsiasi... Sì, mi piace. Lei è lennoniano, è assolutamente lennoniano. Sì, lei. Sì, e Massimo ha fatto il solo. Tu non hai suonato in questo pezzo, Massimo ha fatto il solo. Sì. Mi pare, non so, posso anche sbagliarmi, che quello è un suono di clavicembalo in My Life, e l'hai fatto con la chitarra. E c'è un aneddoto, dillo Lele. Dimmi, vai Lele. Che è suonato a velocità, a mezza velocità. Non so se dimmi. George Martin è suonato, è suonato lento e poi è stato raddoppiato, e quindi l'hanno è venuto registrato fuori. Lento e poi l'hanno esattamente raddoppiato. è uno dei tanti giochi. A proposito del discorso di John Lennon e Paul McCartney, hai fatto anche te il falsetto come John Lennon stasera, leggermente sei andato in falsetto, dimmi. Praticamente no, io poi effettivamente io sono più John Lennoniano. Sei lennoniano. Maurizio Vandelli, quando andavo a Modena, mi chiamava Giovanni Lennino. Giusto, perché lui era il principe. Quindi mi chiamava Giovanni Lennino, perché io portavo queste registrazioni su delle cassettine così fatte a casa, cantando un inglese maccheronico, e lui diceva: questo è John Lennon. Ecco, devo... Ma il pianista, un pianista amico mio, che suonava con Chet Baker. Uno non qualsiasi, praticamente. Infatti già a casa c'ho un disco di Chet Baker autografato, I hope you will enjoy my music, Chet Baker. E un giorno mi fa: ma sai che tu canti proprio come Paul McCartney? Accidenti. Vabbè. Allora, adesso qui rientriamo un attimo. Sì, no, volevo interrompo un attimo solo per salutare Adriano Mazzucato. Ci ha mandato un messaggio tramite Facebook, Adriano degli Home, che dice: complimenti, Adriano ci starà ascoltando da lassù, quindi lo crediamo anche noi. Grazie Adriano per il tuo commento. Allora volevamo fare due pezzi, i pezzi classici che fa Adriano di Peter Green. Che un grande amore. Oh baby, I love another woman. E questo era proprio il grande amore di Anna. Adriano iniziava quasi sempre con questi due pezzi. 1, 2, 3, 4. Me, babe, let me hold on, whoa, whoa, whoa. When you squeeze me, babe, let me hold on, whoa, whoa, whoa. To get my mind, what are you trying to do to me? You're a good-looking woman, just as sweet as you can be. Looking woman, just as sweet as you can be. Don't get my mind, what you try to do to me. with me, babe. Let me hold on, whoa, whoa, whoa. When you squeeze me, babe. Let me hold on, whoa, whoa, whoa. Don't get my mind. What you try to do to me? Blue time live. Ecco qua, in questa serata sono le 22:25, siamo quasi al giro di boa di questa grande serata insieme in ricordo e memoria di Adriano Vettore, parlando con i protagonisti di questa serata: Lele Zambon, Fabio Betto, Francesco Bergamo, Massimo Favaretti, poi altri ospite a distanza che si collegheranno via telefonica con noi per portare la loro testimonianza per Adriano Vettore, per l'appunto. Allora, grande atmosfera blues anche in questo momento, Lele. Grande atmosfera blues. In questo momento Peter Green ci è ulteriormente vicino. Ci segue da lontano. Allora, ci quando segue. Iniziavamo certe volte i concerti, arrivavamo qua, dovevamo suonare, ci guardavamo in faccia, con cosa iniziamo? Iniziavamo e Adriano partiva con questo. Ma perché sempre Peter Green per Adriano? Perché no, questo che facciamo ora è un pezzo molto morbido, un pezzo di, come dire, di riscaldamento, un pezzo che non... che sembra un pezzo non impegnativo. Invece un non pezzo è proprio di, così. Invece no, poi... Eh. Ed era un pezzo in cui provavamo i suoni, provavamo le cose, partivamo sempre con questo pezzo qui. Facciamo un po' di scratching come i calciatori all'inizio della partita, praticamente. Esatto. Anche Dio. Perché il blues inizia sempre un po' in sordina, no? Un po' in sordina. Un e poi che si poi amplia. Questo è un blues sudamericano, sì. Tra parentesi. Rifacendoci al discorso di prima, ti ricordi? Sì, certamente. E quindi un altro blues? Un blues sudamericano. No, è di Peter Green, naturalmente. Ecco, sì. By myself, my baby gonna leave me crying by myself. Love another woman, I love my best girl. She was really good woman, she didn't mean no harm. She was really good woman, she wouldn't mean no harm. But love another woman, now she's up and she's gone. Thank you. my baby gonna left me crying by myself. My baby gonna left me crying by myself. Love another woman, I love my best girl. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ancora un bellissimo pezzo proposto in questa serata, un full immersion nel blues fino alla mezzanotte. Ne approfittiamo per ringraziare dello spazio anche Alberto Prisco, che è l'organizzatore di questa serata, e solitamente lui è in onda dopo le 22:30 con il suo programma Rock Wave, la classifica. In questa serata lui è qui con noi, svolge altre funzioni, e comunque lo ringraziamo per aver organizzato questa bella serata di blues e di ricordo appunto ad Adriano Vettore. Un blues mediato da Black Magic Woman, chiaramente mediato, visto che gli autori sono gli stessi, sempre lui. Gli accordi sono gli stessi. Gli accordi sono gli stessi. Fabio ha fatto. I solisti sono diversi. I solisti sono diversi. Fabio, grande Fabio. Ha fatto un grande assolo, Fabio. Massimo, ti trovi bene a suonare con Fabio? Mi trovo molto bene. E quando suonavate assieme anche ad Adriano, com'è il discorso? No, con Fabio non hai mai suonato? No, sempre con Lele e Adriano e con altri amici. Con lui no, con lui ci siamo incrociati da Adriano, andandolo a trovare e comunque masticando musica, perché andando da Adriano, anche quando si non stava sempre, vero? No, ma anche quando non stava bene, come arrivavi dentro, come io arrivavo dentro e anche lui sicuramente, Adriano prendeva una delle sue 140 chitarre. Esatto, 140 chitarre, cari io ragazzi. Io ero rimasto 114. 140. Sì. Ultimamente mi dava in mano una Dobro che aveva lì, che era la prima che gli capitava. Ricordiamo la Dobro, chitarra metallica, sì, in questo caso, sì. E mi diceva, Massimo suona. E per me era già arrivare in paradiso, perché suonare per lui, suonare con lui, e ultimamente fare anche qualche coretto con lui, anche se non stava bene, però tanta era la voglia di suonare, di sentire musica, e suonavo per mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, il tempo che c'era a disposizione, facendo un pezzo dopo l'altro. E con Adriano e con lei le abbiamo condiviso poi, quasi con una scadenza quasi mensile, una bellissima esperienza fatta sia a Padova che fuori Padova, per delle serate culturali, musicali. E come prima il brano di apertura di molti concerti fatti fra Lele e Adriano, quindi che era Peter Green praticamente, che era Peter Green, noi aprivamo sempre le nostre serate musicali in questa trio un po' anomalo di due chitarre acustiche e una chitarra elettrica con Adriano, però con la sua delicatezza, che quindi si fondeva perfettamente con i timbri acustici delle chitarre. Iniziavamo con una canzone degli America, forse non tra le più conosciute, comunque sicuramente conosciuta, una canzone, scusa, di Simon e Garfunkel, che si chiama America. Che bellissima. E non so perché, ma l'apertura della serata anche noi ci trovavamo a dire, con cosa cominciamo? Ci guardavamo in faccia e tutti e tre dicevamo America. Come faceva America? Ce la vuoi far sentire un pezzettino? Mm-hmm. Let us be lovers, we'll marry and flirt together. I got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes, and he says, wanna buy? And we're off to look for America. Katie has said it was boarded a greyhound in Pittsburgh. Michigan seems like a dream to me now. He turns from day to each other signal and I've come to look for America. Laughing on a bus, playing game with the faces. She said a man in a gabardine suit was a spy. I said be careful if Billy is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I look at the scenery, she read her magazine, and the moon rose over an open field. ATM lost, I said, for I knew she was sleepy. An empty necking and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they all come to look for America. All come to look for America. All come to look for America. Questo pezzo di Simon Garfunkel reinterpretato da Lele Zambon, sì, Fabio Betto, ancora con Francesco Bergamo e Massimo Favaretti qui all'interno della programmazione speciale di Blu Radio Veneto fino alle 24 insieme a loro e insieme alla memoria di Adriano Vettore, questo grande musicista scomparso prematuramente, questo grande chitarrista come lo stiamo ricordando. Più tardi avremo anche altre testimonianze in diretta, sempre telefonica. Allora, questo pezzo, come diceva prima Massimo, non era tra i più come dire conosciuti, ma io direi di Simon Garfunkel, ma io direi magari tutti conoscevano la melodia, nessuno si ricordava il titolo, Massimo, è vero? Direi di sì, e comunque quando lo facciamo ancora adesso è uno dei pezzi che piacciono di più, forse perché meno inflazionati. Vero? Assolutamente sì. Adriano ricordava i cantautori, amava i cantautori impegnati. Lauzi tradusse tutti i pezzi di Paul Simon, tradusse anche America, una traduzione meravigliosa. Purtroppo il disco di Lauzi non si trova più, non è più stato ristampato. Ha fatto una cosa meravigliosa con Paul Simon, Lauzi. E Lauzi era un grande cantautore e Adriano amava i cantautori di un certo livello. Moltissimo, sì. Amavo moltissimi grandi cantatori, poi facciamo un pezzo di Guccini che Adriano aveva insegnato anche ai ragazzini della scuola, Quindi diciamo che uno nel suo repertorio di insegnamento c'erano proprio questi autori italiani ed erano molto importanti ed erano sicuramente sviluppati nell'insegnamento a questi ragazzini. Com'era strutturato un concerto di Adriano? Oltre al blues suonava qualcosa d'altro o suonava solamente il blues? No, dipende dalla situazione, perché naturalmente se Adriano suonava con la bella blues band suonava il blues, suonava il blues. Noi avevamo anche un gruppo che si chiamava Big Beat, che si chiama Big Beat, si chiama ancora? Ancora Big Beat, e lì diciamo è più un beat italiano, quindi dobbiamo ricordare che Adriano ha cominciato con il beat, quindi poi si è buttato come bassista, esattamente, come poi bassista. Si è buttato e grazie poi, ai militari della caserma Ederle al blues, non è così Massimo? Suonava il basso con Maurizio Boldrin e con Maurizio Tortima. Sì, esattamente. Nei Cesar, esatto. Sì, ho visto un CD che a casa della mamma di Adriano, che Franco Maria Serena, ha portato un CD dei Cesar. Quindi primi 64, l'ho proprio ascoltato, l'ho proprio ascoltato in questi giorni in macchina. Sì, sì, nominato bello. Franco probabilmente sarà con noi più tardi. Sì, no? Finita la partita del Padova, dovrebbe essere finita la partita. Dipende del Padova, se Padova perde o vince. Esatto. E che umore è? Bene, comunque ce l'avremo. Comunque la bellezza proprio di Adriano è che se c'era una serata dedicata a tema come poteva essere una serata blues, ovviamente era il suo pane quotidiano e quindi il blues lo sentiva particolarmente. Però qualsiasi genere musicale e qualsiasi pezzo, anche che lui non conosceva, erano veramente pochi quelli che lui non conosceva o quantomeno aveva sentito, anche se non aveva mai suonato o interpretato, però erano per lui l'occasione per mettersi alla prova e soprattutto per fare molto spesso un passo indietro, cioè quei piccoli interventi dove non era la sua quotidianità, cioè il blues, che però davano ai pezzi un sapore particolare. Sì, una cosa straordinaria che prima ha ricordato Jimmy, aveva fatto praticamente la descrizione, aveva scavato nel profondo di un pezzo di Neil Young, non era mica semplice, straordinaria. Mentre ascoltava moltissimo e scavava, trovava dei riferimenti, sì, studiava continuamente. Studiava il pezzo dopo pezzo, studiava sempre. Ti dirò di più che sentire un pezzo che non era nel suo repertorio era per lui l'occasione per poterlo fare. Ecco, vedi. Quindi questo da parte di un grande musicista come era lui è un segno di grande apertura, di non avere dei paletti e di essere curioso. E credo pensava che... come si pensava una volta, i musicisti di una volta pensavano così, sperimentare, cercare, trovare, scovare. Un po' adesso, un po' meno. E poi, poi c'era questo discorso, a lui piaceva moltissimo la coralità e quindi noi facevamo tre voci. Allora non era importante se era la prima, la seconda, la terza, l'importante è fare le tre voci. E in questo senso lui anche ci aiutava con i Royals quando suonavamo, ci aiutava moltissimo e cercavamo queste vocalità. Lui faceva una voce, ma... Però l'importante è esserci e che tutto funzionasse. L'importante era il risultato finale, l'importante era che il pezzo venisse bene, non che il merito fosse di uno della band o suo, certo, in particolare, certo. Ma che il pezzo riuscisse, magari con l'intervento di poche note. Tu ti ricordi su Mad World gli interventi di Adriano? Io cercavo di ritagliargli uno spazio consono alle sue capacità. Lui diceva no, perché è perfetto così, faccio solamente andare in risonanza la chitarra, basta. Questo era il suo intervento su un pezzo come Mad World. Benissimo, allora Lele, in questa vasta scaletta di musica. Adesso facciamo un pezzo veramente conosciuto da tutti, anche questo è un pezzo fatto migliaia di volte, del grande Bob Dylan. Molti di questi pezzi di Bob Dylan li facevamo però nella versione dei Birds, certamente conosciuti più della versione di Birds, che hanno avuto poi un successo. Esattamente. Allora facciamo Mr. Tambourine Man. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm no sleepy and there is no place I'm going to. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I can follow with you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my sense have been a strip, and my hands can feel to grip, and my tools too numb to step. Wait only for to undream. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Guess your dancing spell my way. I promise to go on the rain. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy yet, there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I can follow with you. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato questo Mr. Tambourine Man nella versione dei nostri amici che sono venuti a trovarci in studio. Ancora una volta Lele Zambon, Fabio Betto, Francesco Bergamo, Massimo Favaretti qui insieme a noi per ricordare la figura di Adriano Vettore. E quindi qual era la versione che si era scelto di questo Mr. Tambourine Man? Quella dei Birds o quella dei Birds? Quella dei Birds. Ma suonava Rickenbacker? Allora, sì. O no? Suonava Rickenbacker, ma ogni volta aveva una chitarra diversa, se lo poteva permettere. Certamente. Esattamente, pezzo meraviglioso dei Birds, chiaramente. E sì, adesso voglio fare una domanda a Fabio. Prenditi il microfono. Che cantante era Adriano? Anche a tutti quanti voi, dopo. Era fenomenale. Il discorso dello slang inventato, oppure no? È una leggenda metropolitana. Sì, quella. Sì, sì. Che cantante era? Beh, aveva delle doti vocali innate, secondo me. Tra l'altro era, secondo me, il meglio di sé lo dava nel connubio con la Kay Foster, che era che è una cantante americana che è entrata che collabora spesso con la Bella Blues Band. Certo. C'è una bellissima, oppure anche su pezzi come The House of Rising Sun. Ecco, una cosa, c'è una particolarità su The House of Rising Sun. Qualcuno ha detto che la cantava meglio di Eric Burdon. Beh, quando una tonalità che Eric Burdon non riusciva ad arrivare, è così? La cantava benissimo Adriano. Appunto, la cantava talmente bene, sì, che Eric Burdon, secondo i puristi, qualcuno ha scritto che la tonalità che faceva Adriano, Eric Burdon non ci riusciva più a farla. Sì, cioè, la caratteristica era che anche quando andava su, restava sempre bella piena, bella corposa, bella grassa la voce, non perdeva di forza. E House, sì. come la faceva Adriano, come la costruiva? Stava fedele all'originale o la cambiava, la strutturava, la allargava? No, lui interpretava le canzoni, cioè non è che si rifacesse papale a papale a quelle che diventavano sue, sì, praticamente, e questo volevo dire. Sì, sì, e voleva così anche da tutti i musicisti. Tra l'altro un simpatico aneddoto è che nell'ultimo lavoro, Bluet, che abbiamo registrato l'anno scorso, in studio portava le canzoni che aveva scritto lui, non le faceva sentire a nessuno, cioè la volta dopo gli dicevamo: Adriano, dammi un spartito, qualcosa. Sì, dammi qualcosa. No, voglio che in studio, era molto. Attendeva che in studio, proprio in diretta, i musicisti la interpretassero. Sì, esatto. Incredibile. Questa è la canzone, si fidava ciecamente dei collaboratori e questa doveva essere. Benissimo, e si fidava ciecamente di musicisti, è una cosa molto bella questa qua, molto interessante, innovativa, anche se innovativa per il 2013, adesso la gente non si fida, si fanno 20.000 prove prima, con Adriano era diverso. Sì, era diverso, sì, no, per lui era importante il feeling, ecco, che veniva creato. Era importante il feeling, siete d'accordo che era importante il feeling, Massimo? Assolutamente sì, era importantissimo il feeling. E soprattutto lui diceva sempre, uno dei tanti insegnamenti che mi ha dato era quello di dire liberati, ecco. suona come ti senti, il pezzo è questo, benissimo, interpretalo e così non sarà mai uguale ogni volta che lo farai davanti a qualcuno, che certo, siano 10 o 1000 persone. Certo. E un percussionista come si liberava, Francesco, con Adriano? Come si liberava un percussionista? Un percussionista? Ma io non ho mai suonato il percussionista. Come si liberava un armonicista con Adriano? Mi sono sempre trovato molto bene con Adriano. Tra l'altro volevo ricordare che molti dicevano che aveva un timbro di voce molto simile a Van Morrison. Esattamente. Però non faceva mai un pezzo di Van Morrison. Comunque è vero che assomigliava molto il timbro di voce, il modo di cantare. Un bel apprezzamento assomigliare a Van Morrison, certo, chiaramente. Certo. Vogliamo fermarci un attimo col monopolio maschile, perché abbiamo un ospite femminile in questo caso collegata telefonicamente con noi, quindi salutiamo Virginia Zambon. Buonasera Virginia. Buonasera, ciao a tutti, ciao, vi sto ascoltando, siete dei perfetto, bei chiacchieroni. È vero, facciamo ascoltare comunque anche tanta musica, è vero Virginia? Sì, siete bravi. Grazie. Ecco, e allora, con piacere saluto anche Checco Bergamo, che non vedo e non sento da millenni, mentre gli altri li vedo più frequentemente, davvero. Comunque ho apprezzato molto anche l'intervento di Jimmy, che è stato molto carino, devo dire, no? Sempre di una sensibilità molto, molto bella, insomma, ha detto delle belle cose e di sicuro sono convinta che ci stia ascoltando Adriano, sicuramente, me lo ricordo anch'io con grande affetto davvero, e mi ricordo dei piccoli dettagli che possono essere lo sguardo magari, no, che ci si lanciava passando, mi ricordo per quanto riguarda me poi, che magari utilizzavo di più la voce a differenza di altri musicisti ovviamente, mi ricordo questo scambio di a solo lui con la sua chitarra e che mi ripassava la palla con l'inciso, il ritornello, come lo vogliamo chiamare, insomma, quindi questa cosa. Poi mi ricordo quando ero più piccola che magari andavamo a trovarlo a casa e mi ricordo questa stanza della musica proprio piena appunto di queste chitarre tutte appese, 100-140, vi ho ascoltato, adesso non mi ricordo il numero esatto, e che sicuramente facevano molto, erano veramente maestose, no? Poi veramente come dei piccoli giocattoli per me piccolina, ma che in realtà erano dei grandi strumenti, insomma, ecco. E di sicuro una bellissima persona con una grandissima umanità, un gran cuore, che sapeva ascoltare, sapeva in modo veramente umile riempire con la sua voce o con la sua musica e con i suoi strumenti il cuore di tutti quanti, insomma, ecco, di sicuro. Hai fatto qualche duetto con Adriano, Virginia? Ho fatto sicuramente, certo, qualche duetto, abbiamo cantato molte cose, mi piaceva comunque anche appunto, come avete detto voi, le varie voci, no, che si intrecciavano, quindi questi cori che si creavano, Route 66, lui la faceva sempre un po' più rock, io l'amavo un po' più swing, però ci si incrociava e mi faceva sempre delle bellissime seconde voci, poi vabbè, tutti i Beatles, io sono molto legata a loro, di sicuro più che ad altro, e anche con papà sicuramente, no? E quindi io me lo ricordo anche molto, molto legato anche ai Beatles, se vogliamo. Con Kay Foster Jackson, anche secondo me dava veramente il meglio di sé, era una bella unione, erano due bellissime voci, due bellissimi artisti proprio che si univano e si compensavano molto bene, devo dire. Ottimo. Sì, sì. Bellissimo. Si compensava, era una cantante americana, Kay Foster Jackson, assolutamente. Un po'... ce l'aveva fatta un po' scoprire lui, se vogliamo, anche meglio, di sicuro. Ma partecipava allora ai concerti di Adriano qualche volta? Sì, sì, sì, suonavano insieme diverse volte, cioè una volta in particolare mi ricordo un concerto meraviglioso che aveva fatto al San Gaetano, in questo posto a Padova, proprio in un angolino del San Gaetano, perché poi è talmente grande quel luogo che in realtà i luoghi migliori come acustica erano quelli un po' più piccolini, e quindi mi ricordo davanti proprio al ristorantino lì dove si poteva mangiare anche qualcosina, eravamo andati io e mio papà ad ascoltarli, ed è stato un bellissimo concerto, molto piacevole, veramente. E lei mi è piaciuta molto con lui, e tutti e due avevano veramente fatto una bellissima interpretazione, una bella serata davvero. Non so se è capitato anche a te, Virginia, però mi diceva Francesco che spesso e volentieri quando vedeva un amico tra il pubblico lo invitava sul palco, non è così Lele e Fabio Massimo? Lo invitava sul palco a suonare assieme, quindi non c'era giustamente distinzione, un gruppo tutto assieme, la musica era un assieme unico, non era una musica divisa, non c'erano settori, era una cosa unica. Penso certo, sia per certo, guitarista. Era una jam session continua, esattamente. Insomma, no? Sì, sì. E questa è una cosa bellissima. Quindi assolutamente sì, no, aveva gran voglia di fare, gran voglia di insegnare, di imparare, e di unire, diffondere, sperimentare, reinterpretare. Insomma, si potrebbero elencare un sacco di verbi alla fine, e anche tutta il progetto che portava avanti comunque con i bambini appunto della parrocchia, insomma, il fatto di andare ad insegnare loro dalle piccole cose, proprio si vedeva la sua voglia, no, di parlare di musica alla fine, insomma, questo era quello per cui secondo me probabilmente era nato, no? Probabilmente anche per tante altre cose, ma questa era proprio la sua missione. La sua missione, certo, certo. Bene, come diceva anche un altro grande artista, Frank Frost, in un backstage una volta aveva incontrato Adriano e gli aveva detto: "You have got the blues, my friend", è vero? Quindi sono stati momenti toccanti, so che lui si era commosso molto anche di fronte a questa situazione. Ma è sicuramente una frase che tocca, poi se detta da una persona che magari stimi ancora di più, no? A me l'hanno detta col swing, quindi posso, posso dire che è una cosa che a me l'ha detta la Charlie Porter. Charlie Porter, un giorno, una sera, mi ha detto: "You got the swing, darling", quindi so che è una cosa che fa emozionare, che riempie il cuore, quindi poi detta da personaggi, insomma, così veramente credo che proprio sia uno dei complimenti più belli che si possano ricevere, di sicuro. Benissimo. E lui aveva il blues, aveva il rock, aveva molte cose, però il blues forse era quella, era forse lo stile che più gli apparteneva, di sicuro. Quindi the blues inside proprio. Esatto, allora, come la bella blues band, ovviamente. Benissimo, certo, bella blues band da ricordare. Allora Virginia, presto verrai a trovarci anche nei nostri studi?

Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ecco qua un altro bel pezzo condiviso insieme con Adriano Vettore, che ci sta ascoltando da lassù, come ci piace ricordare più volte, ancora con Lele Zambon, Fabio Betto, Francesco Bergamo, Massimo Favoretti qui insieme a noi, e poi alcuni collegamenti a distanza a telefono come questo che stiamo inserendo in questo momento. Diamo il benvenuto all'interno della nostra programmazione anche a Don Giuseppe Tommasin. Buonasera Don Giuseppe. Buonasera, buonasera a voi. Allora Don Giuseppe, amico di Adriano Vettore, parroco della parrocchia di Torre, dove venerdì sera ci sarà questa manifestazione a carattere musicale proprio in ricordo di Adriano e della sua voglia di fare musica, della sua voglia di stare insieme con gli altri. Una testimonianza, Don Giuseppe, di quello che hai vissuto con Adriano. Sì, io Adriano l'ho conosciuto, diciamo, dopo il covale la mamma, frequentava la famiglia a casa sua da alcuni anni, e poi in questi ultimi 5-6 anni ho incontrato anche lui, ho conosciuto anche lui, e direi ho visto veramente una persona buona, la stessa pasta dei suoi genitori, discreta, una persona così semplice che si è fatta conoscere e senza esaltarsi si è reso disponibile a seguire i ragazzi in parrocchia per il corso di chitarra. La cosa bella è proprio quella che non era uno che si metteva in mostra, ma una persona semplice ma innamorata della musica, della chitarra, della musica anni 60 in modo speciale. E voleva trasmettere questa sua passione, questa sua così, questo suo amore per la musica anni 60 anche ragazzi, direi che lo faceva veramente molto, molto, molto bene. Il corso è partito con 4-5 ragazzi e in poco tempo sono arrivati 20-25 ragazzi, ho dovuto fare 2-3 turni di corso, ecco, di chitarra per seguire un po' tutti quanti a seconda anche dei livelli. E l'ha fatto anche molto volentieri questo, quello di raddoppiare il corso, perché voleva sempre rendere partecipi sempre più persone a quella che poteva essere poi una futura passione per la musica. Sì, sì, sì, direi che la musica, proprio della musica lui era innamorato, della chitarra, anche di una certa musica di un certo periodo, appunto degli anni 60, era proprio innamorato. E voleva far passare anche ai ragazzi questa sua passione, questo suo amore. Era bello a volte passare accanto alla porta dove lui appunto stava, dentro la stanza dove stava facendo questo corso di chitarra, e sentire con che passione cantava, con che passione invitava i ragazzi. Non ho mai sentito rimproverare i ragazzi se sbagliavano qualcosa, ma proprio invogliandoli a cantare, cantando lui, suonando lui, facendo passare proprio questa bellezza della musica attraverso la sua persona, la sua testimonianza. Quindi è difficile trovare degli insegnanti di questo livello, cioè degli insegnanti che non siano poi leader in questo caso, no? Quindi al servizio di chi sta imparando a suonare, in questo caso Don Giuseppe. Sì, penso proprio che non sia facile, perché sinceramente, ecco, senza dire male di qualche altro maestro che è stato qui in parrocchia, però abbiamo provato in 2-3 volte a fare corsi di chitarra qui in parrocchia e ogni volta pian piano si estingueva. Probabilmente lui sapeva veramente trasmettere qualcosa che altri non riuscivano, e quella passione, quella voglia che è rimasta nei ragazzi, di fare i ragazzi quando appunto qualcuno era via in vacanza, saputo della morte di Adriano, sono rimasti veramente male, proprio dispiaciuti di aver perso non soltanto un maestro, ecco, di chitarra, ma proprio una persona veramente buona, disponibile, discreta, che faceva male le cose, ecco, senza tanti discorsi, con la sua persona, con la sua passione, proprio la sua passione. E penso che l'abbia aiutato anche nella sua sofferenza, malattia, questa così passione che aveva per la musica, perché l'ultima serata che ha fatto qui in parrocchia è stata proprio a fine maggio, quando ormai la malattia era molto molto avanzata, e lui ha voluto farlo a tutti i costi, seduto, ma c'era, e credo che questo messaggio sia passato ai ragazzi che l'hanno seguito. Sì. Buonasera Don, sono Maurizio. Sì, hai detto una cosa giusta, questo messaggio è passato sicuramente ai ragazzi, perché i ragazzi, mi diceva Massimo, che hanno un enorme entusiasmo quando faranno faranno l'esibizione il giorno 27 in ricordo di Adriano. Sì, beh, Massimo si sta seguendo lui, quindi certamente avrà avuto modo di cogliere subito quella voglia, quel desiderio di cantare che aveva trasmesso Adriano a questi ragazzi. Sì, sì, giustamente, come lei ha detto, da passare a 3, a 20, a 25 vuol dire che c'era un entusiasmo che aumentava, che cresceva a dismisura, perché Adriano dava entusiasmo, coinvolgeva. Sì. Passava la sua passione agli altri, la trasmetteva, perché è una cosa che mi stupiva sempre, insomma, questo veramente gruppo di ragazzi che partecipavano. Stasera hanno trovato un ragazzo che non sapeva neanche che la scuola era ripresa, è rimasto male, ma come, non ho sentito niente, non ho sentito, ho detto vieni subito venerdì, che così ti unisci al gruppo che è già partito, insomma, ecco, per dire come c'è questo desiderio di ricominciare, anche se lui in questo momento è presente in altro modo, ma ricominciare con chi può continuare a trasmettere questa passione e questo gusto per la musica. Benissimo, allora ringraziamo Don Giuseppe Tomasin di questa sua testimonianza che ci ha voluto dare. Buonanotte Don Giuseppe. Buonanotte. E quindi rinnoviamo i nostri ascoltatori che venerdì la musica non è solamente da sentire ma anche da vedere, quindi in piazza San Michele Arcangelo all'interno della Sagra di Torre qui a Padova ci sarà appunto un concerto dedicato a Adriano Vettore, appunto con l'inizio alle 20:30 proprio con i ragazzi che hanno condiviso questa scuola con Adriano. Grazie ancora a Don Giuseppe. Grazie, prego, prego, buonanotte a tutti voi. Buonanotte. Allora Lele, proseguiamo con un pezzo musicale? Sì, voglio solo ricordare una cosa, prego, Flavio, Maurizio. Velocissimamente. Hanno scelto Chance of Freedom, pezzo di Bob Dylan, cantato dai Birds, un pezzo meraviglioso. C'è una particolarità, proprio ieri stavo ascoltando, mi sarà Adriano che mi ha guidato, stavo risentendo il disco dei Birds e mi sono fermato su Child of Freedom. Non si sa. Vedi cosa vedi vuol com'è dire. È il momento magico. È un momento magico, è un momento. Adesso volevo mettere su una canzone che ho composto io sui testi di Allen Ginsberg. Esattamente, ma è importante questo perché ti ha spinto Adriano a fare questo disco di Allen. Ecco, queste composizioni le avevo fatte nei fine anni 60 sui testi di Allen Ginsberg, poi chiaramente sono rimaste nel cassetto. C'è una diciamo, storia che tu mi hai raccontato tempo fa, del disco doveva essere pubblicato, poi non è stato pubblicato. Ecco, poi Adriano diciamo mi ha ridato l'entusiasmo e mi ha spinto a fare questo CD. Siamo stati da Pittura Fresca e abbiamo registrato nello studio di Pittura, Fresca e abbiamo registrato queste 10 pezzi, queste 10 poesie di Allen Ginsberg con la presenza di molti musicisti particolarmente quotati sotto la direzione artistica di Paolo Andriolo, che poi mi piacerebbe sentire. Sì, poi vediamo. Dopo lo coinvolgiamo, sì. Dopo questa canzone, così che ci spiega. Qui Adriano fa un assolo meraviglioso. E qui Adriano alla fine fa un assolo che è, secondo me, stratosferico. Ascoltiamo questo Downtown Manhattan da una poesia di Allen Ginsberg. Charles Blues shall fly on the phonograph. hand. 3 years after a red Adonis, last triumphant stanza's alive. Wept realizing how we suffer. Whoa, oh. And how that is the tragedy all singers dream of. Sing, remember prophecy is in the Hebrew anthem, or the Buddhist book of answers. In my own imagination, over with relief at all. Back through life, your time and mine, accelerating toward apocalypse. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Benissimo, abbiamo ascoltato un altro bellissimo pezzo in questa serata, tutto merito anche di Lele Zambon che ha seguito queste tracce musicali alternandole a dei preziosi momenti live, come contraddistinta solitamente la serata qui a Blu Radio Veneto. Allora ricordiamo ancora una volta questa serata dedicata ad Adriano Vettore, e questo pezzo di un tributo a Ginsberg. Abbiamo anticipato prima di ascoltare questo brano con Lele Zambon che c'era un contributo speciale da chi ha curato, diciamo, la direzione artistica di questo pezzo, Lele. E quindi abbiamo l'onore di avere a telefono Paolo Andriolo. Buonasera Paolo e benvenuto in frequenza. Ciao Flavio, ciao Lele, ciao a tutti gli ascoltatori. Buonasera Paolo. Piacere per me essere qui, insomma in questa serata, ricordando anche Adriano con cui ho condiviso, insomma, molto, tantissimo, diciamo, della mia, diciamo così, attività musicale. Paolo, come sei riuscito a coinvolgere Adriano in questo progetto, in questo assolo meraviglioso che ha fatto, in questo disco di Lele? Com'è stata l'idea, Paolo? Ma innanzitutto è un progetto che questo di che è partito sì da Lele, però c'è stato comunque subito un coinvolgimento di Adriano, che sia per, diciamo, anche la sua matrice musicale, che è quella del blues, è sicuramente stato un apporto molto, molto importante, insomma, sia a livello musicale, anche a livello di amicizia, così, perché abbiamo deciso poi anche insieme come arrangiare i brani, che tipo di ospiti anche invitare. Adesso io, scusami, ma non sono riuscito a sentire quale brano avete messo prima in... Abbiamo messo Downtown Manhattan. Ah, ciao Lele. Sì, ciao, sì. ciao. Sì. Ah, che mi ricordo, infatti. No, perché ci sono stati vari ospiti, no? C'è stato anche Paolo Marton, c'è stato Nicola Stilo, c'è stati, insomma, è stato un lavoro molto, così, molto, molto bello, molto stimolante anche dal punto di vista artistico. È bello che Adriano aveva spinto fortissimamente Lele a fare questo disco, l'aveva spinto perché secondo Adriano era un disco da fare, e difatti è stato un'ottima cosa, sofferta, sì. Ma buona, vero Lele? È stata, sì, sofferta, sì. Perché ci hai messo un po' di tempo per farlo. Mettiti un po' vicino al microfono. La prima volta che siamo andati a Venezia con le chitarre, siamo partiti dalla stazione dei treni di Noale. Come mai dalla stazione di treno? Spettacolo. Come mai? Mi sembrava di essere nel Far West. Nel Far West, sì, sì. Sì, no, in effetti sì, abbiamo registrato a Venezia, no? Quindi ogni volta era un viaggio, perché eravamo proprio in uno studio a Venezia, per cui dovevamo organizzarci con le trasferte, ma è stato divertente, insomma. Vediamo un attimino anche così. Tu ricordavi di aver vissuto sul palco assieme ad Adriano, quindi aver condiviso molte, molte esperienze musicali, ma tra tutte queste esperienze musicali, qual era, diciamo, la canzone, la musica della passione tra te e Adriano, Paolo? Ma guarda, io ti dico la verità, questa è una bella domanda e ti ringrazio anche perché in realtà c'è un brano che suonavamo spesso insieme. Soprattutto sia, diciamo, quando noi diciamo ci capitava di suonare sempre con in trio, in power trio. Mi ricordo all'epoca il batterista che si aggiungeva, diciamo, era Marco Carlezzo, ma poi in realtà abbiamo fatto tantissime serate, tanti festival, abbiamo fatto alcune serate anche con nomi famosi, mi ricordo Andy J. Forrest, mi ricordo anche che siamo stati in Piemonte in un festival blues con Kenny Neal, che insomma è un nome, diciamo, per chi conosce il blues, sì. di grande richiamo. Ma il brano appunto che suonavamo spessissimo, in cui io anche mi divertivo forse di più, era Caledonia, che era proprio un brano che Adriano cantava e suonava benissimo, e poi ha un andamento, diciamo, un po' swing blues, così, era un blues che però chiaramente aveva questa cadenza un po' swing, bellissimo suonarlo insieme. Sì, ricordiamo ai nostri ascoltatori che Paolo Andriolo è anche un grande bassista e quindi ha condiviso il palco con molti artisti, sia nel panorama internazionale che nel panorama della musica italiana, e quindi un bassista molto versatile che si sposa tra il jazz, il funky e anche la musica pop, vero Paolo? Assolutamente sì, infatti diciamo, oddio, io, per me la musica, sai, se si parla di buona musica, può essere pop, jazz, brasiliana, africana, quando la musica è buona, quindi a me piace comunque suonare, sì, un po' diversificare nei generi, però è giusto anche dire che io sono partito con il blues, e tra l'altro che il blues è un po', secondo me, quello che è la base di tutta la musica, perché io mi ricordo che avevo 16 anni che ho cominciato, diciamo, già. E io mi ricordo dei tuoi concertini all'Istituto Tecnico Commerciale. Quindi, ecco, quindi pensa a te, sono passati divertentissimi, cioè, sì, sì. Almeno più di 30 abbondantemente. Sì, non diciamo 35. Troppi anni adesso. Sì. Però appunto ci tenevo a dire, insomma, che le prime serate che io ho fatto, tra le prime serate, proprio noi suonavamo con Adriano, è stato uno dei primi con cui ho suonato, diciamo, fuori per così dire, in pubblico, e andavamo in un locale che c'era, forse Lele se lo ricorda, si chiama Capitano Puff, che era Vigonza. Se lo ricorda, anche Francesco se lo ricorda, tutti quanti se lo ricordano. Anche un Massimo Urbani ha suonato là. Dimmi. Anche Massimo Urbani ha suonato in quel locale. Ciao Francesco, ciao, sì, Paolo, sì. Ciao. Sì, no, ma infatti quello è stato uno dei primi, penso, c'era quello, poi c'era anche il Capannone a Ponte di Brenta, E io mi ricordo poi di un altro gruppo di Adriano, che forse ne avete già parlato, non ho avuto, purtroppo non potevo ascoltarvi perché stavo provando, ma i Cesar in Rock. Ne abbiamo parlato, sì, sì, ne abbiamo parlato. Avete già parlato. Sì, sì. Che era un gruppo, mi ricordo, che all'epoca non erano tanti a Padova, c'era, diciamo, la musica live, si respirava comunque un'atmosfera completamente diversa da adesso, cioè... E io mi ricordo che i Cesar facevano il pienone dappertutto e ogni volta che andavo a vederli non riuscivo a entrare nel locale dove suonavano, quindi una volta c'era più, boh, forse più interesse per certi tipi, adesso si è un po' frammentato e diversificato troppo. Forse perché c'è troppo, cui... appunto, quindi si dedica poco tempo a tutto in questo caso, Paolo. Ma guarda, se posso aggiungere che... leggevo un'intervista di Iggy Pop che diceva che una volta, cioè, e lo stesso era per me, se dovevi andare a suonare o andare a fare una serata, io dovevo scappare di casa, dovevo, rischiavo di essere, di tornare a casa, di trovare la casa chiusa o quantomeno di prendermi una volta di botte. Sì? Adesso se un ragazzo vuole andare a suonare, c'è il papà che lo accompagna con, magari con la BMW o con la sì, cioè, sì. C'è un, diciamo, è molto più facile, una volta si doveva lottare per suonare. Quindi adesso c'era invece... sacrificio sia per suonare sia per andare a suonare in questo caso. E per non almeno farsi... nel mio caso è stato così. Sì, sì, sì. Che io all'inizio chiaramente i miei non approvavano tanto di uscire di notte così, sai, no? Sì. E quindi è stato. Diciamo che Adriano, io me lo ricordo sempre, appunto, mi viene sempre in mente a lui, soprattutto in questa serata del Capitano Pop. Tra tutti i vari musicisti che si erano presentati ai miei, era quello che, diciamo, dava più affidabilità, perché ce n'erano degli altri che non erano molto raccomandabili. Cui, non so se dire che sia. Dicevano, te frequenti brutte compagnie. Esattamente. Così, no? Paolo, ti ricordi qual è stato il primo pezzo in assoluto che hai suonato con lui? Ma guarda, io mi ricordo con Adriano. Sì, sì, con Adriano. Primo in assoluto. Guarda, io mi ricordo, Help Me, mi sembra, che era anche perché è un brano molto, diciamo, facile, per cui io che ero molto inesperto, siamo partiti con le... Però era un brano che poi comunque abbiamo sempre suonato, anche quando ci siamo riti, perché io con Adriano ho suonato fine anni 70, diciamo, primi anni 80, poi io ho avuto, vabbè, c'è stato siamo sempre rimasti in contatto, però lui è andato, diciamo, più per altre strade, io per la mia. Poi ci siamo ritrovati verso la metà degli anni 90, dove, tra l'altro, noi abbiamo iniziato anche a suonare con, non so se conoscerete Shelby Porter, che è la cantante, sì. Che lei era appena arrivata in Italia perché era praticamente figlia di un... cioè è arrivata alla base NATO di Vicenza e quindi ha iniziato proprio con noi a suonare dal vivo. Lei adesso, anche lei è decollata, diciamo così, però è giusto dire che quando lei è arrivata tra... aveva anche altri musicisti con cui collaborava, però noi siamo stati proprio tra i primi, se non i primi addirittura, verso il 95-96. Ecco. Benissimo, Paolo, ti ringraziamo per questa grande testimonianza in favore di Adriano, in favore della sua musica, in favore di quella che era la vostra musica insieme, e quindi ti auguriamo una buona notte e ascoltaci. Grazie. Ancora per quest'ultima mezz'ora che... Adesso vado sicuramente... Perfetto. Sintonizzo. Benissimo, allora grazie Paolo, buonanotte. Grazie Flavio, ciao a tutti. Ciao Paolo. Arrivederci. Tutti, ciao. Tutto il gruppo ti saluta come grandi amici, quindi in questa serata proprio salotto, diciamo, in questo caso. Mentre si è aggiunto al gruppo anche Franco Sereno, e più tardi sentiremo anche la sua voce. Lele, proseguiamo con la musica? No, volevo citare un'altra cosa. Non la citiamo. Adesso la cantante che abbiamo citato è andata a fare altre cose. Adesso è nel gossip. È nel gossip. È andata sulle stelle. Sulle stelle, sì, esattamente. Abbiamo qui un amico che è venuto a trovarci. Incarnazione Bacchiglione Beat. Abbiamo l'incarnazione Bacchiglione Beat. Allora, eravamo incerti. Siccome è andato a vedere la partita del Padova, sì. Avevamo scommesso se il Padova vinceva. Veniva, se il Padova perdeva non veniva, e se il Padova pareggiava non si sa. È venuto. E quindi Franco, sappiamo Maria che il Padova ha pareggiato. Buonasera Franco. Gli amici che trovo qui questa sera, da Lele, al nostro presentatore Fabio. Sì, scusa Franco, ti invito a parlare più vicino al microfono. Bene, sì, ecco. E un saluto naturalmente anche agli ascoltatori di Blu Radio. Bene, grazie. Allora, Lele, io direi, prima di ascoltare anche la testimonianza di Franco, inseriamo un altro brano musicale e poi torniamo in diretta per la fase finale, diciamo, del nostro incontro, che appunto durerà per 3 ore, quindi un'intensa maratona per ricordare Adriano Vettore. Lele, cosa ci proponi? Oh, adesso vorrei fare un pezzo. Allora, Adriano un anno fa mi ha chiesto, ha portato dei libri di poesie di una sua amica e anche infermiera, Cristina, che ha scritto parecchie poesie, e mi ha detto: Lele, tu che hai questa, leggere, cerca di musicare, mi farebbe piacere se tu musicassi una di queste poesie. E poi insomma queste poesie sono rimaste là, ma effettivamente una mi era particolarmente piaciuta ed è venuta fuori una canzone che mi sembra anche particolarmente simpatica. Io poi questa canzone l'ho registrata con Jimmy Weinstein e gliel'ho portata personalmente in giugno quest'anno. Ricordo la grande commozione quando lui ha avuto la sorpresa di sentire questa canzone che adesso vi proponiamo. È un testo, una poesia di Cristina. Danzerò per te, per i tuoi occhi. Danzerò così profondamente da scordar tutte le note, tutte le stonature. L'energia passerà di mano in mano, avvolgendo i tuoi pensieri, fatti sì emozioni forti, fra l'onde già dei miei capelli. Danzerò per te, per i tuoi occhi. Danzerò così profondamente da scordar tutte le note, tutte le stonature. L'energia passerà di mano in mano, avvolgendo i tuoi pensieri, fatti sì emozioni forti, fra l'ondeggiar dei miei capelli. Danzerò per te. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Velocine. Continua la puntata speciale di Blue Time Live. Siamo in tanti in questa serata. Io, Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, poi ancora Alberto Prisco e i nostri ospiti Lele Zambon, Fabio Betto, Francesco Bergamo, Massimo Favaretti e adesso abbiamo l'onore di avere anche Franco Serena che già ci ha salutato, però adesso ci parla un po' di più di lui, del suo rapporto con Adriano Vettore, con la musica. Franco. Beh, credo che sicuramente avete già detto molto di Adriano. Certo, io non ero qui, non ho seguito la vostra trasmissione. Penso che forse la caratteristica che più metteva in evidenza l'uomo Vettore, Adriano, era la sua modestia, che era straripante dal suo corpo. Proprio lui non aveva che complimenti per gli altri, ma non si aspettava i complimenti, non si aspettava niente. Proprio era una persona, un francescan, dito in dialetto nostro. Poi, cosa dire, io non ricordo molto dell'Adriano negli anni 60, quando ancora magari non aveva incominciato a suonare la chitarra, anche se tutti incominciano a suonare la chitarra e poi passano ad altri strumenti, però immagino che fosse una cosa normale, cioè di una media scontata come musicista. L'ho visto crescere molto velocemente verso la fine degli anni 70-80 da forse un comune chitarrista del quale non posso dare un voto iniziale, ma ho visto una cosa veramente straordinaria, un po' perché lui cercava delle cose diverse, non era il solito bluesman che faceva le scale come il BB, sì, è chiaro che ascoltava il BB King e tutta la famiglia che gli sta attorno, era un qualcosa di raffinato, ecco, mi piaceva anche questa sua eleganza proprio nel suonare. Si potrebbero dire tante cose di Adriano, ma preferisco cantare una canzone che cantavo assieme a lui, sì, e che era dedicata a un altro grande nostro amico, Franco Capovilla. Però lui con il Big Beat, che è quella sorta di gruppo che con Lele Zambon e con lo stesso Franco e anche con Maurizio Baudrin, abbiamo cominciato un'avventura una decina d'anni fa e continua ancora. Purtroppo non è alcuni non sono fortunati che non sono qui con noi, ma io dico alcuni che non sono fortunati, ma può darsi anche che il destino non abbia un aggettivo, non abbia una denominazione, che la fortuna non c'entri niente col destino dell'uomo. Stasera sono solo. Stasera sono solo, non so che fare senza te. Stasera sono solo, forse un'altra troverò. Se tu lo scoprirai, non mi farai più uscir con te. Per farmi perdonare, verrò a prenderti al caffè. Ti volverò a ballare, staremo su fino alle tre. Se non ti troverò, insieme a un'altra me ne andrò. Come on, boy! Ma tu non sei venuta ad attendermi al caffè. Forse ti sei stancata stare sempre insieme a me. Dovrei sentirmi triste, ma non lo sono, sai perché? Vai Fabio! Perché non son più solo, adesso che ho trovato lei. No, no, non son più solo, c'è lei che sogna i baci miei. E se anche tornerei, non ti farò più uscir con me. E se anche tornerai, non ti farò più uscir con me. E se anche tornerai, non ti farò più uscir con me. All right. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E come si vede che l'avete suonata sempre tante volte insieme questa canzone, Franco, è davvero, ha messo un po' di ritmo, un po' di pepe, sì, un po' di beat in più a quello, sì, che era la serata, che era volta verso il blues, quindi un po' di anche un po' di rock and roll, Flavio, di rock and roll, sì, ma direi che non fa male alla salute, no, rock, fa sempre bene alla poi salute. È un derivato, no? È un derivato, assolutamente. Ma voglio dire che Adriano amava moltissimo, sì, il rock, sì, and roll. Sì. Chiaramente la sua natura era più bluesistica. Certo. Una volta mi disse una cosa. Sì. Ah, dice Franco, qua voce che te trovi, che avrai 70 anni e te farai, sì, blues. Hai visto, quindi... Perfetto. Veramente quindi... non sono molto lontano da questa. Ha visto però il continua... Sì, però te l'ha detto quanti anni fa, Franco? Sì. Ma... Non si dice. Non si dice. grazie. Allora ne approfittiamo. Un po' di anni fa, qualche anno fa. Sì, salutiamo anche Pietro Tauker che è in ascolto e ci saluta tutti. Ricordiamo che Pietro è un grande suonatore di Hammond, di tastiere, quindi anche lui ha condiviso una parte del palco assieme ad Adriano Vettore. Quindi ci sta seguendo proprio col cuore, oltre che con le orecchie, perché anche lui era della squadra con Adriano. Una squadra allargata, che bello Flavio. Sì. Tanta gente si sente, si riscopre, si fa sentire che ha suonato come con diceva, Adriano. Come diceva prima Lele, il blues si iniziava da solo, si iniziava in sordina per finire con 10 musicisti tutti addosso. Io posso dire una cosa? Sì, bravo, Franco. Io credo che Adriano avesse molto, ma molto bisogno dei musicisti e degli amici, perché conosco alcune verità che soltanto lui poteva dirmi, così, ma anche forse, ma non per sdebitarsi, per avere la coscienza pulita con la musica, mi fece capire che anche se uno non sapeva suonare la chitarra e andava a chiedergli di fare qualche lezione o qualche consiglio o suggerimento, spesso e volentieri qualcuno gli faceva una piccola donazione. È normale, no? E però lui, se incontrava qualche amico che superava i 60 anni, vale a dire lo considerava un pensionato, non accettava nessuna donazione. Ah, vuol dire che lui, secondo me, aveva molto, ma molto bisogno di avere un contatto costante con tutte le persone che amavano la musica, naturalmente. Certo. Con le sue 144 chitarre. Abbiamo aumentato ancora 4 adesso. Non gli bastava una sola chitarra. Esattamente. Ne bastava solamente una. E poi sul palco si dice che prediligesse una chitarra, una Gibson Custom Les Paul Black Beauty. mentre invece si diceva che sempre quando invece suonava in studio prediligesse la Gibson 335. Ecco, tu l'hai vista lei, la Gibson? Chi l'ha vista? Io so che con qualsiasi chitarra suonasse aveva sempre lo stesso suono. Ah, vale. Non aveva problemi. Sì, non aveva problemi. Ascolta, prima abbiamo fatto sentire la prima canzone che abbiamo messo su era dell'ultimo CD di Adriano ed era quella con cui abbiamo iniziato Song for Peter Green. Esattamente. Ed era dell'album Bella Blues Band Blue. Adesso vorrei far sentire due pezzi che ho selezionato dagli altri due CD della Bella Blues Band The Stalkers, che era una canzone. Che era una canzone Hey Willie che faceva spesso, e mi ricordo che quando suonavamo qui Royal il nostro batterista Amleto diceva: Adriano, mi suoni Hey Willie? Sì, allora un attimo solo che devo inserire Hey Willie. Abbiamo stravolto un po' la scaletta. Sì, ho cambiato una cosa perché siamo a molto adesso, guarda, alla fine. Abbiamo ancora un quarto d'ora. Sì, ma circa. Sistemiamo subito la. Allora mi piaceva far sentire proprio di ogni CD di Adriano almeno da un che pezzo. Album del secondo CD? Questo è The Bella Blues Band Stalkers, che è il Fabio dice il primo. Franco. No. Poi voglio dare un piccolo comunicato, ma che è un messaggio, ma lo dico alla fine. Alla fine del pezzo, va benissimo. Okay. Allora ci ascoltiamo il pezzo e poi torniamo per parlarne ancora insieme. Hey, Willie, what's the deal, man? used to be. Now it goes around talking behind my back. Why are telling all these lies? Didn't I treat you always right? Doing like this, you brought it tight. I think you'll last down till I die. Hey Willie, won't make yourself second sight. Now I go around talking behind my back. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E questa era la bella blues band, la grande band di Adriano Vettore con questo Hey Willie. Allora, noi prima avevamo salutato Pietro Taucher o Pietro Taucher, a seconda di come vorremmo pronunciare il suo cognome, e adesso Pietro ce l'abbiamo proprio qui in diretta per il suo breve contributo a questa nostra trasmissione che parla appunto di Adriano Vettore. Buonasera Pietro. Sì, buonasera a tutti quanti. Come avevo preannunciato, è difficile parlare senza emozionarsi, ovviamente. Certo, ma parla come se fossi ancora sul palco con Adriano. Sì. Poi sentendo Hey Willie, che ho suonato 800.000 volte con lui, è veramente difficile. Comunque io posso dire solo questo: era una grandissima persona, come tutti sapevamo, ma secondo me la cosa più grande l'ha fatta all'ultimo momento, l'ultima volta che abbiamo suonato, a 2 mesi dalla scomparsa. Abbiamo finito di suonare, tutti felici, eccetera. E, come sapete, io suono l'organo Hammond, che pesa tanto con l'esti e tutto, e all'1:30 di notte, alla fine, e comunque lui provato anche dalla malattia, è stato l'unico, alla fine ha preso l'Hammond e ha detto ti aiuto a spostarlo, e questo era lui, una persona sicuramente unica. È sempre anche molto disponibile, anche tra sempre, gli addetti ai lavori, non solamente addetti ai lavori nel senso sì, di... quando lui ha scoperto che io avevo suonato a Chicago Blues Festival, ero diventato io il suo eroe, quando lui è sempre stato il mio per tutta la vita. Ho capito, quindi era proprio questa maniera di, sì, questa, di rapportarsi con veramente gli altri. Come hanno detto altri, sì. l'incredibile voglia di conoscere, di ascoltare, di apprendere, l'umiltà, e sicuramente comunque avendo anch'io suonato con tantissimi grandi musicisti, devo dire che Adriano, a parte le parole e tutto, era veramente un grandissimo musicista, e molti si dimenticano di questa cosa qua, cioè la sua umiltà nascondeva la grandezza che c'era dietro, era veramente un fenomenale musicista. E poteva insegnare a tutti quanti tranquillamente, e speriamo che la sua musica rimanga, insomma, a testimonianza di tutto questo, e soprattutto era anche circondato di gente fantastica che l'ha sempre aiutato, metteva comunque un sorriso in bocca a tutti, e tutti erano felici con lui sul palco. Questa cosa non si trova quasi mai in nessun gruppo, e lui era un mago in questa cosa qua. Benissimo. Questo è il mio contributo. Grazie Pietro, sei stato un po' commosso, ma gentilissimo. Poi si sa, si parla sempre un po' con col cuore in gola quando si affrontano questi argomenti, però una volta che ti vedi ancora Adriano Vettore davanti a te, pensi che stai ancora suonando con lui, perché esatto. le note, quello che avete anche registrato insieme, quelle cose lì rimangono. E quindi qualcuno diceva Adriano Vettore adesso sta insegnando a suonare le chitarre agli angeli che hanno dismesso le arpe, e quindi speriamo che ci sia un grandissimo concerto blues anche lassù, diciamo così. Benissimo. E anche un abbraccio a sua mamma che ci ha sempre aiutato. Benissimo, quindi salutiamo anche la signora mamma di Adriano. Grazie Pietro del tuo grazie mille a voi per averlo ricordato, è stato bellissimo. E ancora buona musica. Allora, grazie, siamo mille. Quasi alla conclusione di questa lunga maratona musicale legata al blues, legata alla memoria di Adriano Vettore. Ricordiamo che questa è stata la parte da sentire, poi per vedere e sentire la musica blues, la musica proposta dagli amici di Adriano Vettore, ci sarà questa seconda parte dal vivo il 27 settembre dalle ore 20:30, quindi un concerto in piazza San Michele Arcangelo a Padova, in zona Torre, proprio all'interno di quella che è la sagra di Torre, dove alle 20:30 si esibiranno i ragazzi della scuola di chitarra di Adriano, per l'appunto, e a seguire la formazione Amici di Adriano per allietare il pubblico con delle buone sonorità e anche con delle ottime sorprese. Franco deve dire una cosa, Franco. Sì, Franco. Vai, Franco. Sì. Ecco, sì, voglio informare il pubblico anche per Adriano, per ricordarlo, che stiamo organizzando un concerto dedicato non solo ad Adriano Vettore, ma anche ad altri amici che non ci sono più. Parlo di Gildo Fattori, Franco Capovilla e Paolo Giuffrida, quattro personaggi assieme ad Adriano Vettore che hanno fatto la storia del beat, o perlomeno della musica padovana, dagli anni 60. Ecco, voglio ricordare, cioè, vi sto dicendo adesso che verrà realizzata in data 27 dicembre, perciò abbiamo qualche mese davanti, all'Auditorium San Gaetano Altinate, all'ex Tribunale di Padova. Benissimo. Comunque sarà un'entrata libera, gratuita, e fin tanto che l'auditorio riuscirà a contenere. Sì. Chiaramente sono invitati tutti gli amici di Adriano. Certo, allora Franco, avremo modo di riparlare di questo avvenimento, anzi ti chiediamo già di metterti come disponibilità una delle prossime serate con Blu Radio Veneto, proprio per approfondire questo argomento. E verrò senz'altro assieme naturalmente a degli amici. Benissimo. Allora siamo giunti in conclusione, quindi abbiamo avuto un grande spazio dedicato questo grande personaggio, grande chitarrista, un bluesman eccezionale, Adriano Vettore, e ringraziamo chi insieme a noi di Blu Radio Veneto ci ha regalato del suo tempo per appunto ricordare la memoria di questo artista. Quindi ringraziamo Lele Zambon, grazie a Lele. Grazie a voi. Ringraziamo ancora Fabio Betto, grazie chitarrista, mille. Poi ancora Francesco Bergamo. Ciao, grazie a voi. Francesco, e ancora Massimo Favaretti. Grazie, buonanotte a tutti. Che sta portando avanti appunto il progetto dei ragazzi che si esibiranno venerdì sera. Poi ringraziamo a distanza ancora Jimmy Weinstein, che è stato con noi in supporto telefonico. Poi ancora Paolo Andriolo, Virginia Zambon, Franco Serena, e poi ancora Don Giuseppe Tommasin, e in conclusione abbiamo sentito anche Pietro Tauker che ci ha portato la sua esperienza. Allora grazie di cuore a tutti quanti, immagino che ci lascerete con un altro pezzo dal vivo. prima di andare via. Benissimo, allora io e Maurizio... Un pezzo amato proprio da Adriano. Ah, benissimo, perfetto, grande. Allora Maurizio, noi salutiamo, lasciamo i microfoni aperti ancora ai nostri artisti per quest'ultima canzone dedicata ad Adriano Vettore. Allora, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è proprio tutto, grazie a tutti gli ascoltatori di questa bella maratona musicale e quindi buonanotte a tutti, vi lasciamo ancora una volta i microfoni aperti, grazie amici di Adriano Vettore, grazie mille. That's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do it. That's alright. That's alright. That's alright, mama. Any way you do. Hey, mama, she don't tell me. Papa don't tell me too. Son, I got you fooling me. She ain't got you. That's alright. That's alright. That's alright. That's alright, mama. Anyway you do. Hey, hey. That's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do it. That's alright. That's alright. That's alright, mama. Any way you do. That's alright. That's alright. That's alright, mama.